Capitolo 51. I guai non vengono mai da soli. Molly si infilò gli abiti da passeggio e strisciò via, come le era stato chiesto. Si portò dietro il peso opprimente del suo cuore e del suo corpo fino a che raggiunse un campo, non molto lontano, dove sin da bambina era solita cercare il conforto della solitudine. E lì, al riparo della siepe, si mise seduta, seppellendo il viso nelle mani e tremando tutta al pensiero della sofferenza di Cinzia, che lei non poteva tentare di toccare né di lenire. Non seppe mai per quanto tempo rimase lì, ma era di molto passata l'ora di pranzo quando ritornò furtivamente nella propria stanza. La porta sul lato opposto del corridoio era spalancata. Cinzia aveva lasciato la camera. Molly si sistemò l'abito e scese in sala da pranzo. Cinzia e la madre erano lì, nel silenzio austero di una neutralità armata. Il viso di Cinzia sembrava di pietra per colore e durezza, ma ella cuciva la sua retina come se non fosse accaduto nulla di particolare. Non era così per Mrs. Gibson. Il suo volto recava tracce evidenti di pianto ed ella alzò gli occhi e salutò l'ingresso di Molly con l'accenno di un lieve sorriso. Cinzia proseguì a lavorare come se non avesse mai udito aprirsi la porta o non avesse avvertito avvicinarsi il fruscio del vestito di Molly. Molly prese un libro. Non per leggere, ma per assumere la parvenza di un'occupazione qualsiasi che non richiedesse l'esigenza di fare conversazione. La durata del silenzio che seguì fu incommensurabile. Molly si mise a immaginare che un qualche antico incantesimo gravasse sulle loro lingue e le mantenesse immobili. Finalmente Cinzia parlò, ma dovette cominciare due volte prima che le sue parole uscissero chiare. Desidero sappiate che da questo momento in avanti è tutto finito tra me e Roger Hamley. Il libro di Molly si abbassò sulle sue ginocchia. Con gli occhi e le labbra aperte, ella tentò di capacitarsi di ciò che Cinzia intendeva. Mrs. Gibson, replicò lamentosa, come se fosse rimasta ferita. Avrei potuto capirlo se fosse successo 3 mesi fa, quando eri a Londra, ma adesso è proprio assurdo, Cinzia, e tu sai che non è quello che vuoi. Cinzia non rispose, né l'espressione risoluta del suo viso mutò quando Molly alla fine disse: Cinzia, pensa a lui, gli si spezzerà il cuore. No, obiettò Cinzia, non accadrà, ma anche se fosse, non posso evitarlo. Tutte queste chiacchiere passeranno presto, disse Molly, e quando lui sentirà la verità raccontata da te, da me non la sentirà mai. Non lo amo abbastanza da dover sopportare la vergogna di porgere delle scuse, di pregarlo di restituirmi la sua stima. La confessione può essere, beh, non posso certo credere che sia piacevole, ma può essere di conforto se la si fa a persone, a una certa persona. Implorare perdono può non essere una mortificazione. Non so dirlo. Tutto ciò che so è, e lo so bene, e agirò inflessibilmente di conseguenza che è qui. Si interruppe. Penso che potresti concludere la frase, osservò la madre dopo un silenzio di 5 secondi. Non posso sopportare di scusarmi con Roger Hamley. Non mi abbasserò una sua opinione di me inferiore a quella di una volta, per quanto sciocco possa essere stato il suo giudizio. Preferirei non rivederlo mai più per questi due motivi. E la verità è che non lo amo. Lui mi piace, lo rispetto, ma non lo sposerò. Gli ho scritto per dirglielo, l'ho fatto semplicemente per il mio sollievo, perché quando o dove la lettera lo raggiunga. E ho scritto al vecchio Mr. Hamley. Il sollievo è la sola cosa buona che è uscita da tutto questo. È un tale conforto sentirsi di nuovo liberi. Mi ha esaurita così tanto il pensiero di sforzarmi di raggiungere la sua bontà. Attenuate la mia condotta, concluse, citando le parole di Mr. Gibson. Però, quando Mr. Gibson tornò a casa dopo un pasto silenzioso, ella chiese di parlargli da sola nel suo ambulatorio e lì gli ripeté le giustificazioni per il proprio comportamento che aveva dato a Molly molte settimane prima. Quando ebbe finito, aggiunse: «E ora, Mr. Gibson, vi tratto ancora come un amico. Aiutatemi a trovare una casa lontano da qui, dove tutte le perfide chiacchiere e pettegolezze di cui la mamma mi ha parlato non possono seguirmi e raggiungermi». Sarà anche sbagliato preoccuparmi di avere la buona opinione della gente, ma sono fatta così e non posso cambiare. Voi, Molly, tutte le persone di questa città, non ho la pazienza di fare da pietra dello scandalo. Voglio andar via ed essere un'istitutrice. Mia cara Cinzia, Presto, Roger sarà tornato, un pilastro di forza. La mamma non vi ha detto che ho rotto il fidanzamento con Roger? Ho scritto questa mattina, ho scritto a suo padre. Il messaggio lo raggiungerà domani. Ho scritto a Roger, se mai riceverà quella lettera. Spero per allora di essere lontana, magari in Russia. Sciocchezze, un fidanzamento come il vostro non può essere rotto, se non di comune accordo. Tu hai solo arrecato molto dolore ad altre persone senza esserti resa libera. E tra un mese non lo vorrai più. Quando comincerai a pensare con calma, sarai felice di pensare alla stabilità e al sostegno di un marito come Roger. Hai sbagliato, hai agito scioccamente dal principio. Forse hai avuto torto dopo, ma non vuoi che tuo marito ti reputi perfetta? Sì, rispose Cinzia. E comunque il mio innamorato deve ritenermi tale. Ed è proprio perché non lo amo, neanche come la cosa più piccola che possa amare, che sento di non poter sopportare di dovergli dire che mi dispiace, di ritrovarmi dinanzi a lui come una bambina sgridata che deve essere ammonita e poi perdonata. Ma è proprio quello che stai facendo qui, davanti a me, Cinzia. Sì, ma a voi voglio più bene che a Roger. L'ho spesso ripetuto a Molly, e l'avrei detto a voi se non mi fossi aspettata e non avessi sperato di lasciarvi molto presto. Riuscivo a vederlo quando il ricordo di tutto questo vi tornava in mente, riuscivo a leggerlo nei vostri occhi. Lo sapevo per istinto. Ho una sensibilità particolare e so leggere i pensieri degli altri quando si riferiscono a me. Quasi detesto l'idea che Roger mi giudichi secondo i suoi parametri, che non sono adatti a me, e che poi mi perdoni con condiscendenza. E allora penso proprio che sia giusto che tu abbia rotto il fidanzamento, osservò Mr. Gibson, quasi rivolto a se stesso, quel povero ragazzo. Ma sarà meglio anche per lui. Ha un cuore forte e buono, povero vecchio Roger. Per un attimo la fantasia volitiva di Cinzia si rese avida verso l'oggetto che stava sfuggendo alla sua presa. L'amore di Roger divenne per un istante un tesoro, ma ancora una volta ella seppe che nella sua integrità di alta e fiduciosa stima, così come in quella del rispetto appassionato, quell'amore non sarebbe più stato suo e per il torto che aveva commesso ella lo gettò via e non ne volle più sapere. Eppure, negli anni che seguirono, quando fu troppo tardi, ella si interrogò spesso e tentò di penetrare l'inscrutabile mistero del cosa sarebbe stato. Prendete ancora tempo fino a domani prima di mettere in pratica la tua risoluzione, consigliò lentamente Mr. Gibson. Gli sbagli in cui sei caduta sono stati dapprima meri errori infantili e ti hanno condotta verso molta disonestà, lo ammetto. Non datevi pena di definire le sfumature del nero, replicò amaramente Cinzia. Non sono così ottusa da non conoscerle tutte meglio di chiunque altro possa descrivermi. E per quanto riguarda la mia decisione, l'ho messa in pratica subito. Potrà passare molto tempo prima che Roger riceva la mia lettera, ma spero che alla fine l'avrà. E come ho detto, ho informato suo padre. A lui non dispiacerà. Oh, signore, penso che se fossi stata educata in modo diverso, non avrei avuto il cuore penosamente arrabbiato che ho. Ora, no, non fatelo. Non desidero il conforto della ragione, non lo sopporto. Ho sempre desiderato ammirazione, venerazione, una buona opinione da parte degli uomini. Quelle cattive pettegole. Indirizzare parole dure a Molly. Oh, ahimè, penso che la vita sia molto triste. Lasciò cadere la testa nelle mani. Era esausta mentalmente e fisicamente. Così pensava Mr. Gibson. Egli ritenne che parlare ancora avrebbe solo aggravato la sua agitazione e l'avrebbe fatta stare peggio. Lasciò la stanza e si recò da Molly, là dove sedeva addolorata. Vai da Cinzia, le sussurrò, e Molly obbedì. Prese Cinzia tra le braccia, con la sua forza gentile, le posò la testa sul proprio petto, come se l'una fosse stata la madre e l'altra la figlia. Oh, mia cara, mormorò, ti voglio tanto bene, cara, cara Cinzia. E le accarezzò i capelli, le baciò le palpebre. Cinzia rimase immobile e passiva, finché all'improvviso si riscosse, colpita da una nuova idea, e guardando Molly dritta in viso le disse: Molly, Roger sposerà te. Vedrai se non è così. Voi due, bravi. Ma Molly l'allontanò con repentina violenza e disgusto. No, protestò. Era tutta rossa per la vergogna e l'indignazione. Tuo marito stamattina, il mio stasera. Ma cosa pensi che lui sia? Un uomo, sorrise Cinzia. E perciò, se non vuoi che io lo definisca volubile, coglierò una parola e lo chiamerò consolabile. Ma Molly non le restituì alcun sorriso. In quel momento la domestica Maria entrò nell'ambulatorio dove si trovavano le due ragazze. Aveva il viso spaventato. Il padrone non è qui? Chiese, come se non si fidasse dei propri occhi. No? Rispose Cinzia. L'ho sentito uscire. Ho sentito che chiudeva la porta d'ingresso neanche 5 minuti fa. Oh, per carità, continuò Maria. C'è un uomo a cavallo venuto da Hamley Hall e dice che Mister Osborne è morto e che il padrone deve andare immediatamente dallo Squire. Osborne, Hamley, morto? Esclamò Cinzia, terrorizzata e sorpresa. Molly uscì dalla porta principale cercando il messaggero nel crepuscolo ed entrò nel cortile della stalla dove egli stava immobile sul suo cavallo scuro, chiazzato di schiuma, visibile grazie alla lanterna collocata sui gradini lì vicino, posata lì dai servitori sgomenti per la notizia di quel bel giovane che aveva frequentato la casa del loro padrone, così dotato di giocosa eleganza e amabilità. Molly si avvicinò all'uomo. I cui pensieri erano smarriti nel ricordo della scena che aveva lasciato nel luogo da cui veniva. Posò la mano sulla pelle calda e umida della spalla del cavallo. L'uomo si riscosse. Il dottore sta arrivando, signorina. Egli infatti vedeva chi lei fosse grazie alla luce fioca. È morto? È così? Chiese lei a bassa voce. Ho paura di sì. O almeno non c'è dubbio. Secondo quanto hanno detto, ma ho cavalcato veloce. Potrebbe esserci una possibilità. Il dottore sta arrivando, signorina. È uscito. Lo stanno cercando, credo. Andrò io stessa. Oh, il povero vecchio Squire. La ragazza si recò in cucina, percorse tutta la casa con estrema rapidità per avere notizie dei movimenti del padre. I domestici non ne sapevano più di lei. Né lei né loro avevano notato ciò che Cinzia, dall'udito sempre sensibile, aveva sentito. Il rinchiudersi della porta d'ingresso si era scontrato con le orecchie sorde degli altri. Molly corse di sopra nel salotto dove Mrs. Gibson si trovava sulla porta ad ascoltare l'inusuale trambusto della casa. Che c'è, Molly? Ma come sei pallida, figliola? Dov'è papà? È uscito? Cosa succede? Dove? Come faccio a saperlo? Io dormivo. Jenny è venuta di sopra verso le camere da letto. È una ragazza che non si attiene mai al suo lavoro e Maria si approfitta di lei. Jenny, Jenny! Strillò Molly, frenetica per quel ritardo. Non gridare, mia cara, suona il campanello. Cosa potrà mai esserci? Oh, Jenny! Disse Molly a metà della scala per raggiungerla. Chi ha mandato a chiamare papà? Cinzia entrò per unirsi al gruppetto. Anche lei aveva cercato tracce o notizie di Mr. Gibson. Qual è il problema? Chiese Mrs. Gibson. Nessuno riesce a parlare e a rispondere a una domanda? Osborne Hamley è morto, rispose Cinzia gravemente. Morto? Osborne! Poveretto! Però sapevo che sarebbe successo, ne ero certa. Ma Mr. Gibson non può far nulla se è morto, povero giovane. Mi domando dove sia Roger adesso. Dovrebbe tornare a casa. Jenny era stata rimproverata per essersi recata in salotto invece di Maria, quello era il suo posto, e così aveva perso quel poco di senno che aveva. Le sue risposte alle domande concitate di Molly erano state del tutto insoddisfacenti. Un uomo aveva bussato alla porta sul retro. Lei non era riuscita a vedere chi fosse, non aveva chiesto il suo nome. Voleva parlare al padrone. Il padrone era sembrato andare di fretta e si era fermato solo a prendere il cappello. Non starà via lungo, pensò Molly, altrimenti avrebbe lasciato detto dove fosse diretto, ma quel povero padre tutto solo. E poi un pensiero le attraversò la mente. E lei agì subito di conseguenza. Vai da James, digli di mettere la mia sella da mazzo e su Nora Creina. Non piangere, Jenny, non c'è tempo per questo. Nessuno è arrabbiato con te, corri. E così Molly si presentò al gruppetto di donne radunate con indosso la sua giacca e la sua gonna. Una viva determinazione nei suoi occhi, un tremore controllato agli angoli della sua bocca. Che cosa mai? Cominciò Mrs. Gibson. Molly, cosa pensi di fare? Ma Cinzia aveva compreso in un'occhiata e stava sistemando il vestito che Molly si era infilata in tutta fretta mentre lei passava. Sto andando là. Devo. Non posso pensarlo là da solo. Quando papà tornerà verrà sicuramente a Hamley e se non sono desiderata lì rincaserò con lui. Sentì la voce di Mrs. Gibson seguirla con le sue rimostranze, ma non si fermò per quelle parole. Dovette aspettare nel cortile della stalla e si domandò come il messaggero riuscisse a mangiare e a bere il cibo e la birra che i domestici gli avevano portato. Vederla uscire aveva evidentemente interrotto la viva discussione. Le domande e le risposte che quelli si stavano scambiando velocemente. Ma lei colse l'espressione tutti in mezzo all'erba aggrovigliata e lo squire non ha voluto che nessuno di noi lo toccasse. L'ha sollevato come se fosse stato un bambino. Ha dovuto fermarsi e riposare spesso e una volta l'ha messo seduto per terra. Poi però l'ha ripreso tra le braccia, ma noi abbiamo pensato che non l'avremmo mai più tirato su. Lui e il cadavere. Il cadavere. Molly non aveva creduto alla morte di Osborne finché non ebbe udito quelle parole. Cavalcarono rapidamente all'ombra della siepe di caprifoglio in fiore, ma quando rallentarono per salire a una sommità o per dar respiro ai cavalli, Molly risentì nelle orecchie quelle due piccole parole e le ripeté a se stessa nella speranza di inculcare l'aspra verità nella sua reticente comprensione. Ma quando furono in vista dell'immobilità totale della casa che brillava al chiar di luna, la luna era ormai sorta. Molly restò senza fiato e per un attimo pensò che non sarebbe mai riuscita a entrare e ad affrontare la presenza in quella dimora. Una sola luce gialla brillava ferma, macchiando il lucore argenteo con la sua terrena volgarità. L'uomo la indicò. Era quasi la prima parola che diceva da quando aveva lasciato Hollingford. È la vecchia stanza dei bambini. L'hanno portato lì. Lo squire ha ceduto ai piedi delle scale e l'hanno portato nel posto più comodo. Sono certo che lo squire è là dentro anche lui e anche il vecchio Robin. Sono andati a prenderlo, come uomo informato in mezzo a bestie ebeti, finché non fosse arrivato il dottore vero. Molly scese dalla sella prima che l'uomo potesse smontare per aiutarla. Raccolse le gonne e non si fermò di nuovo a pensare a cosa l'aspettava. Corse lunghi sentieri un tempo familiari, salì in fretta le scale, passò attraverso le porte fino a che non ebbe raggiunto l'ultima. Allora si arrestò in ascolto. C'era un silenzio di morte. Aprì. Lo squire sedeva da solo accanto al letto, tenendo la mano del morto e guardando dritto nel vuoto davanti a sé. Non si mosse, non fece alcun cenno, neanche un battito di ciglia all'ingresso di Molly. La verità era ormai entrata nella sua anima e nessun medico, per quanto intelligente, avrebbe mai potuto, nonostante gli sforzi, restituire il respiro a quel corpo. Molly gli si avvicinò con i passi più dolci e con il minimo rumore di cui fosse mai stata capace. Non parlò perché non sapeva cosa dire. Sentiva che egli non nutriva più alcuna speranza nella capacità terrena. Dunque, che bisogno c'era di parlargli di suo padre e del ritardo del suo arrivo? Dopo un momento di pausa trascorsa in piedi accanto al vecchio, ella scivolò sul pavimento e sedette vicino a lui. Forse la sua presenza poteva offrirgli un po' di consolazione, ma pronunciare parole era cosa vana. Egli doveva essere cosciente della sua presenza, ma non diede segno di averlo notato. E sedettero là, silenziosi e immobili, lui sulla sedia, lei sul pavimento. Il morto, sotto il lenzuolo, completava il terzetto. Molly pensò di aver disturbato il padre nella contemplazione di quel volto quieto, che ora era celato più che per metà, anche se non del tutto alla vista. Il tempo non era mai apparso così commensurato, il silenzio non era mai sembrato così vuoto di rumori come parve a lei seduta lì. I suoi sensi acuti colsero un passo salire una scala lontana e procedere piano avvicinandosi. Sapeva che non era il passo di suo padre ed era la sola cosa che le interessasse. Più vicino, prossimo alla porta, una pausa, un dolce bussare esitante. La possente figura desolata seduta accanto a lei fremette a quel rumore. Molly si alzò e andò alla porta. Era Robinson, l'anziano maggiordomo che portava fra le mani una ciotola di zuppa coperta. Dio vi benedica, signorina, disse. Fategli prendere un goccio di questa. È rimasto senza cibo da colazione ed è ormai passata l'una di notte. Tolse delicatamente il coperchio e Molly riportò la ciotola con sé verso il proprio posto al fianco dello squire. Non parlò, perché non sapeva bene che dire o come presentare quella normale esigenza naturale a un uomo così assorto nel dolore. Ma allungò un cucchiaio verso le sue labbra e le toccò con il cibo saporito come se egli fosse stato un bimbo malato e lei la sua nutrice. Ed istinto, egli mandò giù la prima cucchiaiata di minestra. Ma dopo un minuto disse con una sorta di grido e quasi rovesciando la ciotola che Molly teneva in mano per il gesto veemente con cui indicò il letto. Lui non mangerà mai più. Mai più. Allora si gettò sul corpo e pianse in modo così terribile che Molly tremò tutta per paura che morisse anche lui, che in quell'istante gli si spezzasse il cuore. Egli non fece caso alle sue parole, alle sue lacrime, alla sua presenza, più di quanto si accorgesse della luna che guardava attraverso la finestra aperta con uno sguardo fisso e privo di sentimenti. Il padre della giovane fu accanto a loro prima che entrambi ne fossero consapevoli. Vai da basso, Molly, ordinò gravemente, ma le carezzò la testa con tenerezza mentre lei si alzava. Vai in sala da pranzo. Ora lei accusò il contraccolpo di tutto il proprio autocontrollo. Tremò di paura attraversando i corridoi illuminati dalla luna. Le sembrò come di incontrare Osborne e di sentirsi spiegare come era accaduto, come era morto, cosa provava e pensava e desiderava che lei facesse. Scese nella sala da pranzo, gli ultimi pochi passi con un impeto di terrore, un terrore insensato di cosa potesse trovarsi alle sue spalle. E lì trovò la tavola apparecchiata, le candele accese e Robinson indaffarato a travasare del vino. Molly aveva voglia di piangere, di andarsene in un posto tranquillo e piangere fino a liberarsi di quell'agitazione, ma non poteva certo farlo lì. Si sentiva solo molto stanca e le pareva di non curarsi più di questo mondo. Ma la vividezza della vita tornò in lei quando trovò Robinson che le avvicinava le labbra a un bicchiere mentre lei sedeva nella grande poltrona di pelle verso la quale si era diretta, distinto per trovare riposo. Bevete, signorina, è un buon vecchio Madeira. Il vostro papà ha detto che dovete mangiare qualcosa. Dice: forse mia figlia resterà qui, Mr. Robinson, ed è giovane per tutto questo. Persuadetela a mangiare qualcosa, altrimenti crollerà del tutto. Queste sono state le sue parole esatte. Molly non disse nulla. Non aveva abbastanza energia per resistere. Bevette e mangiò, come il vecchio servo aveva richiesto, e poi gli chiese di lasciarla sola. Tornò alla poltrona e si lasciò andare al pianto per dar sollievo al proprio cuore. Sembra passare molto tempo prima che Mr. Gibson arrivasse. Entrò e rivolse la schiena al focolare vuoto e per un paio di minuti non parlò. È andato a letto, disse infine. Ce l'abbiamo portato io e Robinson. Ma proprio mentre me ne stavo andando, mi ha richiamato indietro e mi ha chiesto di permetterti di fermarti qui. Ti dirò, non so, ma non è bello rifiutare in casi come questo. Io voglio restare, affermò Molly. Davvero? Sei una brava ragazza. Ma come ci riuscirai? Oh, non importa. Ce la posso fare, papà, fece una pausa. Di cosa è morto Osborne? Gli fece quella domanda a voce bassa, segnata dal terrore. Qualcosa che non andava al cuore. Non capiresti se te lo dicessi. L'avevo capito da qualche tempo, ma è meglio non parlare di questa cosa a casa. Quando l'ho visto giovedì dell'altra settimana, mi era parso star meglio di quanto non sembrasse da tanto. L'ho detto al dottor Nichols, ma nessuno può fare previsioni in merito a questo tipo di sintomi. L'hai visto giovedì della scorsa settimana, ma non ne avevi mai fatto parola, disse Molly. No, Non parlo di miei pazienti a casa, per di più non volevo che mi considerasse il suo medico, ma un suo amico. Qualsiasi allarme riguardante la sua salute avrebbe solo accelerato la catastrofe. Dunque, non sapeva di essere malato, voglio dire, di avere un problema pericoloso, qualcosa che poteva finire così. No, no di certo. Non avrebbe fatto altro che badare ai suoi sintomi, accelerando il decorso, per la verità. Oh, papà, esclamò Molly sconvolta. Non ho tempo di approfondire la faccenda, continuò Mr. Gibson, e fino a che tu non saprai cosa c'è da dire da un lato e dall'altro della questione, per ogni circostanza del caso non sei qualificata a dare un giudizio. Ora dobbiamo prestare attenzione a quali sono i nostri doveri in questo momento. Dormi qui per il resto della notte, che ormai è già passata per metà. Sì. Promettimi di andare a letto proprio come al solito. Puoi non crederci, ma con ogni probabilità ti addormenterai subito. È così, alla tua età. Capitolo 52. Il dolore di Squire Hamley. Papà, credo di doverti dire una cosa. Conosco un gran segreto di Osborne, che ho promesso solennemente di non rivelare, ma l'ultima volta che l'ho visto, penso che lui temesse che accadesse una cosa come questa. Fu colto da un attacco di singhiozzi che suo padre temette sfociasse in isteria, ma di colpo la giovane si dominò, guardò il suo viso ansioso e sorrise per rassicurarlo. Non posso evitarlo, papà. No, lo so. Continua ciò che stavi dicendo. Dovresti essere a letto, ma se hai un segreto in testa non dormirai. Osborne era sposato, rivelò Molly con gli occhi fissi sul padre. È questo il segreto. Sposato? Che assurdità! Cosa te lo fa credere? Me l'ha detto. Cioè, io ero in biblioteca, stavo leggendo lì qualche tempo fa, e Roger entrò e parlò a Osborne di sua moglie. Roger non mi aveva vista, ma Osborne sì. Mi hanno fatto promettere segretezza. Non penso di aver sbagliato. Non preoccuparti adesso di cosa è giusto o sbagliato. Dimmi di più subito. Non ne ho saputo più niente fino a 6 mesi fa, il novembre scorso, quando tu andasti da Lady Kemnor. In quel periodo Osborne venne a farci visita e mi diede l'indirizzo della moglie, ma ancora sotto la promessa del segreto. E a parte queste 2 volte non ho mai sentito nessuno menzionare l'argomento. Penso che in quell'ultima occasione lui mi avrebbe rivelato di più, ma entrò a Miss Febe. Dove si trova questa moglie? Giù al sud, vicino a Winchester, mi pare. Osborne disse che ha una francese e una cattolica, e se non mi sbaglio disse che era una domestica, aggiunse Molly. Il padre fece un lungo fischio di incredulità. E poi, proseguì Molly, parlò di un figlio. Ora sai tanto quanto me, papà, eccetto l'indirizzo. L'ho scritto da in un posto sicuro a casa. Dimenticando apparentemente che ora della notte fosse, Mr. Gibson sedette, allungò le gambe, si mise le mani in tasca e iniziò a riflettere. Molly era immobile. Non parlava, era troppo stanca per far più che aspettare. Bene, disse l'uomo infine balzando in piedi. Stasera non si può far niente. Forse entro domani l'avrò capito. Povero visino pallido, prendendolo tra entrambe le mani e baciandolo. Povero dolce visino pallido. Poi suonò il campanello e disse a Robinson di mandare una cameriera che accompagnasse Miss Gibson nella sua stanza. Lui non si alzerà presto, comunicò congedandosi. Lo shock lo ha prostrato troppo. Lo ha lasciato senza energie. Fai in modo di mandargli la colazione in camera. Sarò qui di nuovo prima delle 10. Per quanto tardi fosse, quando se ne andò, mantenne la sua promessa. Ora Molly disse: noi due dobbiamo dirgli la verità. Non so come la prenderà. Potrebbe dargli conforto, ma ho ben scarse speranze. In ogni caso, deve saperlo subito. Robinson dice che è tornato nella sua camera e teme si sia chiuso dentro. Non importa, suonerò il campanello e manderò Robinson a dirgli che sono qui e che voglio parlargli. Il messaggio che gli fu restituito fu: Lo Squire manda i suoi saluti, ma non può vedere Mr. Gibson in questo momento. Robinson aggiunse: Ci ho voluto molto tempo prima che mi rispondesse, signore. Tornate di sopra e ditegli che posso attendere quando sarà pronto. Ora, questa è una bugia, spiegò rivolgendosi a Molly non appena Robinson ebbe lasciato la stanza. Alle 12 devo essere molto distante da qui, ma se non mi sbaglio di grosso, le abitudini innate del gentiluomo lo faranno sentire a disagio all'idea di farmi aspettare i suoi comodi e lo indurranno a uscire da quella camera più di quanto non potrebbero la persuasione e i ragionamenti. Mr. Gibson però si stava facendo impaziente prima che potessero udire il passo dello Squire sulle scale. Egli stava evidentemente scendendo lentamente ma volentieri. Entrò quasi come un cieco, barcollando e aggrappandosi a una sedia, a un tavolo perché lo sostenessero e lo guidassero finché non ebbe raggiunto Mr. Gibson. Non parlò mentre teneva la mano del dottore, tenne solo il capo chino e continuò a stringerla debolmente in segno di saluto. Sono perduto, signore. Immagino sia la volontà di Dio, ma per me è terribile. Lui era il mio primogenito. Lo disse come se stesse parlando a un forestiero, informandolo di fatti dei quali costui non era a conoscenza. C'è Molly, disse Mr. Gibson con un certo groppo in gola e spingendola avanti. Ti chiedo scusa, non ti avevo vista. La mia mente è molto occupata in questo momento. Si mise seduto pesantemente e poi parve quasi dimenticare che loro fossero lì. Molly si domandò cosa sarebbe accaduto. D'improvviso suo padre disse: Dove si trova Roger? Chiese. Non è probabile che arrivi presto al capo? Si alzò e guardò gli indirizzi di un paio di lettere ancora chiuse, giunte con la posta del mattino. Tra queste ce n'era una con la calligrafia di Cinzia. Lui e Molly la videro nello stesso momento. Quanto tempo era passato da ieri! Ma lo Squire non si accorse dei loro gesti e delle loro occhiate. Sarete felici di avere Roger a casa molto presto, credo, signore. Dovrà passare qualche mese, ma di certo tornerà il più in fretta possibile. Lo Squire disse qualcosa a voce molto bassa, sia il padre che la figlia si sforzarono di udire. Entrambi credettero che la frase fosse «Roger non è Osborne». E Mr. Gibson parlò spinto da quella convinzione. Parlò più delicatamente di quanto Molly l'avesse mai sentito fare prima. «No, questo lo sappiamo. Vorrei che qualcosa che Roger potesse fare, o che io potessi fare, o che chiunque potesse fare, gli fosse di conforto». Ma questo è al di là del conforto umano. Tento di dire, signore, che sia fatta la volontà di Dio, disse lo Squire, alzando per la prima volta lo sguardo su Mr. Gibson e parlando con maggiore vivacità nella voce. Ma è difficile rassegnarsi più di quanto credano coloro che sono felici. Tacquero per un po'. Fu proprio lo Squire a ricominciare. Era il mio primogenito, signore, mio figlio maggiore, e negli ultimi anni noi non siamo stati. La voce si ruppe, ma egli si controllò. Non siamo stati buoni amici come si poteva desiderare, e non sono sicuro che lui sapesse quanto gli volevo bene. E allora pianse, di un pianto grandemente amaro. Meglio così, sussurrò Mr. Gibson a Molly. Quando si sarà un po' calmato, non avere paura. Digli tutto ciò che sai, esattamente come è avvenuto. Molly cominciò. La sua voce le sembrò alta e naturale, come se fosse quella di un'altra persona, ma le parole uscirono chiare. Lo Squire non tentò di prestare attenzione, perlomeno non all'inizio. Un giorno, quando ero fuori, all'epoca dell'ultima malattia di Mrs. Hamley, lo Squire frenò a questo punto il suo respiro convulso. Mi trovavo in biblioteca e entrò Osborne. Disse che era venuto solo per un libro e che non dovevo badare a lui, perciò continuai la mia lettura. Dopo un po' arrivò Roger percorrendo il vialetto lastricato del giardino giusto sotto la finestra che era aperta. Non mi vide nell'angolo in cui mi trovavo e disse a Osborne: C'è una lettera da parte di tua moglie. Ora lo Squire le rivolse tutta la sua attenzione. Per la prima volta i suoi occhi gonfi di lacrime incontrarono altri occhi ed egli guardò Molly con ansia indagatrice, ripetendo: Sua moglie? Osborne sposato? Molly proseguì. Osborne era arrabbiato con Roger per aver parlato in mia presenza e mi fecero promettere di non farne mai parola con nessuno, né di menzionare la cosa a loro due. Non l'ho detto neanche a papà, fino alla notte scorsa. Continua, la invitò Mr. Gibson. Di allo squire della visita di Osborne, quella che hai detto a me. Lo squire pendeva ancora dalle sue labbra, ascoltando con gli occhi e la bocca aperta. Qualche mese fa ricevetti una visita di Osborne. Non stava bene e voleva vedere papà. Papà non c'era e io ero sola. Non mi ricordo esattamente come arrivammo a parlarne, ma lui mi raccontò di sua moglie per la prima e l'unica volta dopo l'episodio in biblioteca. Molly guardò suo padre come per chiedergli se fosse opportuno rivelare gli ulteriori particolari di cui era al corrente. La bocca dello squire era arida e intorpidita, ma egli si sforzò di dire: Dimmi tutto, ogni cosa. E Molly comprese quelle parole articolate per metà.